Allarme nutrizionisti, nel 2025 20 milioni di italiani obesi. Nel nostro paese sovrappeso e obesità aumentano anno dopo anno e gli italiani, complice sicuramente la crisi, mangiano male e sono sempre più sedentari. L'ADI presenta l'Obesity Day. Il 10 ottobre negli ospedali di tutta la penisola verranno fornite informazioni e consigli gratuiti per combattere la piaga dell'obesità. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, e responsabile del progetto Obesity Day. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. L'obesità in Italia sta assumendo i caratteri di una vera e propria epidemia mondiale, tanto da preoccupare non solo il mondo medico-scientifico, ma anche il responsabile della salute pubblica. Sicuramente sì, l'obesità ormai è un problema, come giustamente ha detto, mondiale. L'Italia non fa eccezione. Possiamo dire tranquillamente che un italiano su due ha problemi di peso. Fortunatamente ancora solo il 10% sono francamente obesi, ma dobbiamo tenere presente che il 10% è un numero veramente elevato di italiani e gli altri sono in sovrappeso, quindi è un problema enorme, un problema che porta dietro tutte quelle patologie metaboliche, quali il diabete, l'ipertensione, le dislipidemie, che poi peggiorano e la qualità e la quantità di vita. Professor Fatati, che cosa vuol dire concretamente essere in sovrappeso? Ma essere in sovrappeso, se i chili sono pochi, forse vuol dire veramente poco, ma se i chili sono tanti vuol dire accentuare alcuni fenomeni che partono dall'insulino resistenza e che ci fanno avere più patologie legate proprio al rischio metabolico, ossia abbiamo delle glicemie più alte, abbiamo i grassi più alti, abbiamo un rischio cardiocerebrovascolare molto maggiore. Non dimentichiamo poi che abbiamo un problema anche di articolazione, perché il peso agisce sulle articolazioni, e di respirazione, perché il peso ci fa respirare peggio, quindi vuol dire peggiorare proprio la nostra qualità di vita. Secondo un recente studio condotto da Ipsos nel mese di settembre, professor Fatati, le soluzioni più appropriate contro la piaga dell'obesità identificate dagli italiani sono l'educazione alimentare ed interventi strutturali che favoriscono l'attività fisica nelle città. Come a dire, sappiamo quali potrebbero essere le soluzioni per risolvere il problema, ma evidentemente poi passare dalla teoria alla pratica è faticoso o non ne abbiamo la possibilità. Sicuramente sì, fino ad oggi un errore che anche noi medici abbiamo fatto è stato quello di colpevolizzare il singolo soggetto, pensare che l'obesità fosse in relazione soltanto al fatto che quella singola persona mangiava troppo. In realtà l'obesità è un problema di popolazione, è un problema di ambiente, dobbiamo ricreare degli ambienti che ci aiutino a spendere più energia, soprattutto aiutino i nostri ragazzi, i nostri bambini a recuperare appieno l'uso della motilità, l'uso delle gambe, quindi aiutino i nostri ragazzi anche a migliorare e ad accentuare quelli che sono i giochi di movimento. Quindi quando parliamo di interventi strutturali parliamo di interventi apparentemente banali, ma che possono dare grandi soluzioni, come le aree di rispetto intorno alla scuola che consentano ai nostri ragazzi di socializzare e di poter fare l'ultimo percorso, gli ultimi 3, 4, 500 metri a piedi, oppure i giardinetti di quartiere o di isolato che consentano finalmente ai ragazzini di giocare come si giocava una volta, ossia di mettere in atto tutti quei movimenti che fanno spendere energia e fanno pensare meno al cibo e fanno tenere anche una forma fisica migliore. Professor Fatati, a proposito di cibo, se il tema dell'obesità è sempre così in primo piano, verrebbe da chiedersi che fine ha fatto la nostra dieta mediterranea. Ma la dieta mediterranea, anche qui, noi abbiamo ipotizzato, noi medici, una dieta mediterranea che in realtà era una dieta del napoletano povero o dell'uomo del sud povero. Certamente è difficile riprodurre quella dieta mediterranea, perché fortunatamente quella povertà così estrema come quella che avevano i ceti bassi napoletani del 1950 noi in questo momento non l'abbiamo. Però la dieta mediterranea ha dato un grande insegnamento nei comportamenti, che vuol dire non solo il pensare al cibo, ma il pensare a come mangiare, a quando mangiare e con chi mangiare, la convivialità, l'insieme delle tradizioni, la stagionalità del cibo, ecco, la mediterraneità, che è un concetto molto più vasto, su questo dovremmo lavorare, nel recuperare quei comportamenti virtuosi, che erano attività fisica ma anche giusto riposo, che erano tante cose messe insieme che hanno consentito ai popoli mediterranei di sopravvivere in periodi di crisi ma anche di vivere bene quando c'era abbondanza. In un saggio, Mediterraneità, lei proprio afferma le caratteristiche, no, che dovrebbe avere il nostro stile alimentare, insistendo sullo spazio, sul tempo, sull'economia, sulle relazioni e sulla cultura. Eh certo, soltanto avendo una buona cultura del cibo, una buona cultura della cucina, si può fare della buona cucina. Sembra un paradosso, ma noi nel tempo abbiamo dimenticato tutto ciò che era la cultura che tradizionalmente veniva trasmessa da padre in figlio o da madre in figlia o da suocera a nuora, perché poi abbiamo perso quella identità culturale che faceva sì che i gruppi riuscissero a gestire bene le risorse e forse avere di meno quello stress che oggi ci uccide, perché la bilancia dello stress è legata a quello, alle risorse che io trovo e ai miei bisogni. Bene, la mediterraneità vuol dire proprio riuscire a commutare bene le necessità con le mie possibilità, e quindi dobbiamo ritrovare questo equilibrio, che è diciamo un equilibrio che va bilanciato. La mediterraneità, tutti i comportamenti aiutavano a migliorare questa bilancia. Professore, per i nostri ascoltatori, concretamente nella giornata di domani, raggiungendo i centri che aderiscono all'iniziativa e quindi le strutture sanitarie che potete trovare sul sito www.obesityday.org, quale sarà il servizio su cui possiamo contare? Ma diciamo, il servizio è un punto di contatto, si cominciano a dare delle informazioni e si prende contatto con un servizio, con un centro che poi ci può seguire e ci può aiutare, quindi non ci aspettiamo domani chissà che cosa fare, però è il primo passo. Due anni fa dicemmo questo, l'importante è fare il primo passo, è il primo passo verso un percorso che, dovendo portarci a recuperare dei comportamenti corretti, deve essere lungo, deve essere fatto insieme e deve essere fatta con tanta disponibilità sia da parte dei servizi sia da parte di chi viene nei nostri centri. Noi non assicuriamo miracoli, forse un altro dei grandi problemi è che quando parliamo di diete o di alimentazione tutti si aspettano il miracolo, però purtroppo il miracolo nessuno è in grado di farlo. La bacchetta magica non esiste. È un percorso lungo di consapevolezza e anche di piacere, professor Fatati. Anche di piacere. Fare un'alimentazione corretta senza piacere è un errore stratosferico, perché tutto diventa monotono e qualunque percorso viene interrotto. Il piacere fa parte della nostra vita. Se noi spostiamo l'attenzione dalla quantità alla qualità, quindi dalla massa al piacere del singolo, forse riusciamo a ottenere molto di più e a ritornare su quei percorsi virtuosi che erano proprio della mediterraneità, perché il piacere era anche il piacere di stare insieme e quindi di consumare insieme dei cibi buoni. Grazie al professor Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, e responsabile del progetto Obesity Day. Buona giornata, professore. Buona giornata e grazie a voi.